fatto ieri oggi il mio di tutto quello che c'era giù, ho mandato la casa lì giù, e ho giocato, mi sono portato tutto quanto qua sopra oggi. Adesso domani mi smisso tutto quanto, che tutto quanto è in garage, qui c'ho anche la moto, l'ho sistemata, l'ho smontata l'altro giorno, e adesso accende, posso salire e scendere tranquillamente anche in moto adesso. Sono contento. Meglio così. Vabbè, ti avevo dato quei soldi per volare a casa. Sì, la metà me l'ha dato. L'altra metà l'ha usata a lui per sistemarsi la casa a quello, capito? Lui compra i materiali, con quei soldi economi non li chiamano l'opera, hai capito? Ma fanno tutti così a centro storico. La fregatura è quella, fanno tutti così. Anzi, io sono stato fortunato, l'ho recuperato almeno la metà, ma ci sono centri, manco una linea l'ho fatta. Capito la fregatura che c'è lì a centro storico, non conviene manco prendere un appartamento, perché tanto fanno così. Al momento della caparra, dire no, le scuse sono tante, capito? E io ho trovato la camuffata, cioè per dire, nuova luce, una cosa del genere. Poi c'è il stucco, non sono problemi tuoi, ma cioè non sono problemi suoi, ma sono problemi miei, per dire, la disabilità da sopra. Siccome lui queste cose le sapeva, quindi l'ho mai introdotta. Il problema è che io quando prendo la casa, il comune ha 15 giorni che poter cercarmi una, come fai? Il primo accesso che trovi ti prendi, il discorso è quello. È così come si sarebbe successo anche quello di oggi. Io ho avvisato da tempo, gli ho detto che qua a settembre è peggio di come adesso. Infatti, tutto casino, io. E me lo metà l'ho recuperato io, la verità. Se no lo stavo già linciando stasera, a lei, alla moglie e anche a lui. Beh, ci credo, che aspetta, loro li hanno voluti anticipati i soldi, ma non ho capito. E appunto, comunque mai più. Io casi in affitto, guarda, non prendere mai più a centro storico. Se ne prendi, riprendi qualche altro posto, ma a centro storico proprio non conviene più. Là c'è sempre la fregatura. Perché te l'hanno camuffata, capito? Poi quando metti dentro comincia a usare cosa ragione, comincia la verità. E quindi quello di sì, per non spendere i soldi si rifà dei soldi tuoi, della caparra. E già adesso, come si dice, i soldi in banca sta buffo per riparare la roba. Sì, infatti. Ma amore, mi dico, portate la ricavata meno qualche così. Per quello sì, tanto non è in tribunale, cosa la gente mi spende già 140 euro di avvocato, perché lo so già, e quindi cosa non ne vale manco la candela. Ma Giudito, quando ti chiamo per fare un lavoro, gli ho detto, siccome è muratorelle, marito, quando ti chiamo detto, per fare un lavoro grosso, gli ho detto che ti procuro io, gli ho detto, stai tranquillo che la metà delle cose ho detto, non te la do io, non ti preoccupare, ho detto, la tengo io. Ci è rimasto male. È vero, non credo che ci rimane male. Ti faccio male. Io sono anticipo pure, gli ho detto, guarda, arrangiati, non c'ho più soldi. E così bisogna fare. Di Mario Manzi, mica, a casa sua, guarda, da come esce, puzziroso. Ma non esce, è vero. Si nota che non si è dato il suo, ma è un socio di labile, da qui un'altra cosa. Potrei qui è un'altra cumba. L'altro cubo. E lì c'è comunque molto, molto meglio, la verità. Ma molto, molto meglio. È uno dei più alti che c'è qua. E dai, non esagerare. Quel pacchetto che mi sei di testa. Se quadrato, vabbè, quadrato sono pure di che non lo sento, forse di nuovo antimercato. Vabbè, e qui adesso arriva Claudio. Ognogna. E Claudio mi deve chiamare per più fargli l'antenna e mi ha detto un'altra volta, quindi. Sarò lì a fare gli antenne sul palchetto, già so che c'è bene la qua Claudio. Sarà il numero uno, perché non mi non ho il momento adatto, io salarmi tutto su. Adesso vedo di farmi la concessione questa settimana e così cominciamo a mettere le cose in regola, così almeno ho, come si dice, posso anche gridare a furor del popolo, ma senza la concessione non sapete cosa vuoi. È un casino, quindi adesso faccio le cose con calma. Io parlo di concessione di mi parlo di banale, che quando entrano banale entrano anche i mandarini dentro. Ciao, ben sentito Mario. Ehi, ma ti avviene a Carlo, visto di dove sono i famosi, a tramonti Mario, il biondo. dicendo, chi sei tutto Baraguru? Oh, Yuri. Anche a Baraguru c'è stato anche la Frusce, ti ricordi? C'è stato un po' di tempo in Parlamento, poi è fuggita. Ma tu stai dicendo una cosa, lui c'è la Beppe Cagliuso, perché abbiamo i monografici. Grazie. proprio vero, è un mondo sta diventando, non ci sono parole da dire veramente. Bombarde. essere amico che ti sta mettendo la musica sarda. Ma di Rosilo, dove fa piacere questa musica, dai. Questo qui è questo, è quel portantista dell'altro giorno, che ci metteva il valzer, ci metteva la manzucca, ci metteva la polca, che ti porta nell'ora di Bucaglionna. Dove? Non vedi che mucca è entrata? Sicuramente sì, Cappa de Rocio. Vediamo se c'è il crociere di Davide, Antonello! Davide, ci sei? Antonello! Ancora accappottato, sì, mi è venuto in piaghi dagli intermigliati, stamani! Dove? Ah, positivo, positivo! E allora, uno sempre? Io positivo, sempre uno, no. Cappa de Rocio, già va bene, già va bene. Cappa de Rocio, Cappa Rogero. C'è, poi c'è altra gente sotto, non se ne capisce vacca. Succede, perché succede? Quando c'è la penna buona succede, anche la mamma che la tiri dentro. È vero Mario, capita, no? Alle volte dei passaggi li senti mischiati come con gli altri, è una cosa allucinante, va. Salvatore. noi a casa torno. massa. 7 centimetri. Non è, diceva, sembra signor Rosso, ecco. No, non hai capito, don Luca. Ho detto che è il filo grande della mia antenna, della macchina bacchetta, quando si è incappottata, si è rotto in due pulsi, capito? E adesso mi serve la misura giusta dello filo, quanto lungo complessivamente. Con la speranza che la bianca la soffa, che magari non lo sta facendo. Eccetera, ho dovuto scrivere tutto. Nel frattempo si fa nome e cognome mio, guarda che sono deciso, mandate subito un'ambulanza perché ha preso i sensi, c'è l'alcata sopra la rotta, ero incidente in moto che avevo visto a Stintino, andando a Stintino lì nella strada dell'industriale, ma c'è allucinante. E ti fanno un po' di domande, vogliono sapere che condizione è, se respira, se ha preso la coscienza, se è qua, se è là. Io lo so, è così. Se prendete una domanda, voi vado a fare qualcosita. Ah, va, va. Avanti, avanti. Scappa. Dov'è che guardi, devo mandare l'ambulanza, no, devi fare 2000 domande. Sempre. Grazie. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, già riprendo un attimino qualche, oh madonna. Ehi, Alleluia, mannaggia, guarda, una dietro l'altra, è una cosa allucinante, va. Vaga, va. Che è successo? Una bomba, se mi sta preoccupando. Beh, infatti, anche a me mi sembra che era molto preoccupato. Via, via. Comunque ieri l'ambulanza non si sono uscite un bel, erano molti volontari nostri, erano lì all'incendio. Poi è successo un altro incidente con 7 macchine coinvolte, un incidente a Catena a Sant'Orsola, a Ottava, no, a Sant'Orsola, no, e a Sant'Orsola, a Sant'Orsola. Poi è stato che ho sentito, che ho visto sulla Bundibuti, e per Paolo mi sta dicendo che è successo un ulteriore incidente vicino a Bar Graziena. Da sera dentro per capitina, non mi voce, non si sa mai, come si va a finire. Capagava. Ui, per carità. Sono qua. Avanti, ha fatto la rientrata, vai. Dove è successo? No, niente, niente. Mi sono visto preoccupato, per quello mi stavo preoccupando. No, no, niente. Di Lucrezia Borgia. Lucrezia, ci sei? Oggi è domani muro. Avanti, Luca. Oui, Gianni, dottor Ru. Gianni, dottor Ru. Ru. Qui ho preso a fare di mangiare già. Mi sono mangiato il mio desiderio a capocollo, mamma mia, è buono. Poi mi sono mangiato un pezzo di pizza gigante. Mi ho preso la pizza gigante con tanti gusti. Poi mi sono preso quella al tonno. Cipolla, tonno e cipolle, a me piace gusti, bella saporita. No, vagabondo, io lo so tu come l'avresti fatta, gorgonzola, quattro formaggi, dai. Ma già piace anche tonno e cipolle, ma mica me la compro mio qualche volta, tonno e cipolle, non sempre, perché a me piace quella gorgonzola. Ma io la preferisco, tonno e cipolle è proprio saporita, poi sembra che sia così bisante, invece è leggera a mangiarla. Questione di gusti. Buona comunque, me la mangio. Me la mangio. Guarda, ce l'ho preso, me l'avrei mangiata adesso. Capagana. E dove la fa anche con Ricci, lo sai? Dove la prende ordinata? No, no, l'ho presa via Baldetta da quei ragazzi giovani, la fanno un bel buono. Scappa. Non lo so io perché non ci sto più andando. Sono tutti sui 19 e 20 anni, sono tutti giovani, ma lavorano molto bene. Scappa. No, io l'attore no, non ci sto più andando. Soprattutto non gli ho preso neanche più la pizza, poi no. Non ci sto andando per motivi, per motivi che poi ti spiegherò per di cara. Capagana. Ma io sono andato anche ieri, ci ho fatto un panino con l'altarina. Capagana. No, io non ci sono mai più passato. A me la dottoressa mi tratta bene, io lo conosco da ragazzo, conosco i figli, conosco tutti qua. Quando vado mi tratta di russo, mi dice beh frate. Non so, ma ci andrei io la stessa cosa, no, ma per quello non ci sono problemi, cioè ci andrei io, però ho fatto un petto che non mi è piaciuto, che mi ha girato le palline, capito? Ma spartitelo. Giappa. Vabbè. No, ma non è nel fatto della vita, sono altri fatti sono, che poi ti spiegherò, dai, qua non fate, non dire niente. Pagava. E infine l'hanno operato. Aveva avuto un incidente molto anni fa, gli avevano messo il ferro. Adesso gli stava pungendo, gli hanno dovuto togliere il ferro da dentro l'osso e fargli tutta la marada. E uno l'ha musicato, lui mi sembra. Figlio suo. Non trovo ancora che era finita il giornale. Ma è piccolino. Già. Perché due li conosco io, l'altro il piccolino no. Li conosco tutti io, ma voglia che li conosco. Ma quanti figli sono? Quattro, non mi ricordo che mai sono quattro. Ne conosco due. E basta. Quelli che stanno in pizzeria. Già riconosco tutti gli aici, siamo stati compagni di cura con Luciano, adesso ha pure una figlia, che sono tutti amici miei, dai. Chi è Magnale? Quella ragazza che è a lui, io sono amico del fratello, lei è stata a scuola con me, sono tutti a voglia che li conosco. Ma la ragazza è quella che lavora in pizzeria? Sinceramente no, non ci ha mai lavorato. Non ci ha mai lavorato. Ma che carina, non è carina. Perché lavorare in pizzeria è molto carina. Non lo so, no. Ripeto, non mi sono dubbio andato. Quindi non lo so se l'hanno preso a lavorare, perché mi è nata anche questa bambina. Avanti, Falchetto. E chi ne ha voglia la macchina, non ci commessa la cumba, spero che ci troverò molto, molto presto. E come mai non ha questa stanchezza? Solo quando ci avessi io già, lui ci stava a trovare la purezza a fare il pomeriggio. Non si è abituato lui. Io ho finito le 7:30 a lavorare. Ma io sono andato in piedi, ho finito poco fa, sì, qualcosa. Poi non mi sono riposato niente. Sono andato a casa, ho mangiato, sono andato a chiamarmi per un lavoro. E poi sono diventato che erano le quasi le 8 qua. Ah, un extra che fa. Diciamo di sì, dai. E me, se guadagnate la sedina? Sì, guadagno la sedina, va. E vabbè, su male, è stato barotondato. Sì, mi va di unire la maggia, bisogna stringere la cinghia, conservare, se no poi, sai com'è, no, quando sparire i soldi. Bisogna fare le formiche per pensare sempre al dopo. Anche da me quando capita il periodo di magra, almeno ne capisci. Però devo tirare la cinghia perché poi è un casino veramente. Perciò, voglio passare un bel farragosto, ma comunque ce ne sono soldi che arrivano comunque, dice la cassa vedere, capito? E poi altri soldi arrivano, comunque vabbè, devo veramente stringere la cinghia, perché sennò poi è dura. Dura sì, bisogna fare le formiche, io le dolci, avanti Falche. Non vedo, il paio di due. Mi ha sento 10 minuti, se sei per qua, arrivo subito. Ciao, ciao, mi sono mangiato un cazzo, un piattozzo di, come si chiama, di gnocchi di patate, già. È una fritta di capocollo, facevo sempre il fame, boh. Da quando non stai fumando è così, no? Mamma mia, va. C'ho quindi fame, boh, pareva già che cosa, vuoi muovere. Perché quando si lavora, fa così, fa, quando uno non è stato tanto tempo fermo, cosa succede? E quando dormi, quando tu lavori, ti dà un po' più di stanchezza, ma da voi, ti glielo chiato, giù giù, è come se già mangiate, e poi fa così, fa. E la prendi come ricompensa di quello che hai fatto, No, la sua cosa è che non è quello tu. Vabbè, diciamo che anche il, come si chiama, la stanchezza del lavoro, vuol dire tanto. Comunque, lo siete, non c'entra niente già. No, non la puttino più una guarda, fuga non tutti in cantiere, tutti, tranne io. Tentazione c'è. Normale, no. Si muove, da poi quando rientra a casa si mangia pensamente di piedi della banca. Perché sprechi le energie e poi cerchi sempre di riattivarle di nuovo, no? È una cosa normalissima. Chi è questo che sono? Chi è? Avanti. Gianni Caffredo non è entrato. Arrivo, non l'ho sentito. Lasci voce, adesso va bene. Già va bene, da Santiago Setti è arrivato. Ma l'ho sentito anche dentro città, in mezzo ai palazzi, da tutte le parti. Sono andati dalle carte della rete, lo sentivo. È un po' a livello della pizzeria, un po'. Beh, si è abbassato e poi gli si è rialzato di nuovo. Le più forte lo sento per l'ordine in via Milano Alta arriva 9:10 e anche al quadrato lo sentivamo bene, te lo ricordo. Vabbè, logicamente l'antenna adesso pure se non è molto alta, però è grande, è quello che ricompensa, hai capito? Una gran via di 2,5 metri. Quella lì, per esempio, è di 2,5 metri, quella là è 7 metri, e sta ricompensando, è più grande, c'è più radiazione. Quello lì, se tu le metti tutte e due alla pari, se tu fai un paro, le metti tutte e due alla pari, siamo come prestazione. Magari con il gioco una arriva a Santiago 9:10, l'altra arriva Santiago 9, per dire. Troia, eccomi. Eia, ciao, per fa. Raga, ma ci voglio ascoltare un poco fa, stavo ascoltando a Lucariello, lo so, cazzo, stai appoggiati tutto il giorno a palla, da molta stanchezza. Facci neri. Ecco. i predici io. Ma stanno diventando chiacchierone. Ma mai sento che sembra anche a cantare un ciascuno. Seminario è poverino, poverino. Già sono in prigione tutta la vita, i bisini. Poi si stufano magari di ascoltare. Lui dicono. Sono in prigione tutta la vita. Magava. Qui c'è Falchetto, Antonio, Pierpaolo, eccetera. Buonasera a tutti, così non sbagliamo. Gabagaba. Ma anche quel dipendente comunale che sta attaccato alla pala sempre c'è. Appoggiato, non attaccato. Io l'appoggiato, appoggio la bara, Banocagì. Non rispondermi adesso, non accetta le provocazioni. Non è che Luca è, diciamo, metà la dedica alla parte, metà sempre al computer, lo sai. Perché è un cuoco romane. Gabagaba. Attento, tossico dipendente comunale. Non rispondi, no? Sul sinuso. Antonius. Ja, dimmi una cosa. Allora, cosa mi racconti? Ma sai, mi hai trattato di Benzoma oggi? Cosa vedi? Oh, ja. La magra, che non mi credo, no? La tua riga da cui c'è la bombola di amica mia, ti biglia a pizzichia mosse di biglia. Salve. Allora, le di cui telefonate così a Zidu, e lì c'è da qui in vestaglia. Sarà come ti la bufona tu, l'altro che ci vuole il mio collega. Ti ha rumore, se no non ne arrivo. E cosa? Che ha bufonato che hai fatto già? Ma Giuseppe, gli ho detto, devo fare una consegna, no? E non avevo gana di fare i cali, volevo fare un travaglio, E gli ho detto, Giuseppe, vieni qui ti apre un attimo per restare sempre trasparente, ma è buona, ho visto, non ha più nato il duro. Senti, come ti se la lunga apparito si te lì. Era una tipa grassa, con tutta brugolosa, brutta, gara. E dopo al vizio di baciare senza sé perché mezzo manca di capo. Perché anche io mi stavo già baciando da Giuseppe baciando da lì. Ci ha tentato lì di baciarci. E non so più chi ti batte sul cappallone, su quelle gattuglie da buco. Ma dico, bastardo! C'è la cosa da tutti, che se non ci siete già di fatto, di così. Chi è il vero? Mi la metta sempre, mi dico, oh Giuseppe, non è che vieni a aiutarmi oggi, che ti faccio salire da quella bonanza. Io mai cantato, non mi ingaggio più. Ma la cosa che ti ingaggio tu, chissà, dove le mollare subito lì in centro e andati. Ci chiede di raggranfate se lo vuoi a tutto la giacca. Paga, ripeto. Ciao. A farli, ma... a dove è stato chissà? A sorpresa, catturando manco di ragazzi. Allora. Lui. Ma a me è mai visto durata avuta, no? Ma... fa sapere, non si sa mai che voglia di là. Cosa di là? Chi c'ha qua a tempo quella cabina? Vedi di là, no, chi c'ha non se ne va di nulla. Aspetta, buon cuore. E detto, cicco dipendente comunale. Questo. Ehi, avvero, lì. Sì, per poco ancora, non sta lì, lì. La tua idea. Un mese e mezzo. Sì, ancora io andavo a fare, vatti si lora, vatti, su questo anno si lora, manco di una bici. Ma io sono andato in barca, no? Che è la scena? Vado, dice, come c'è più roba nei soldi, no? Controlla, non c'è niente. Ma sto aspettando perché un ragazzo era in barca, no? Ma sei sicuro? Mi risulta che non c'è nulla, è possibile adesso, perché sono puntuali, puntualissimi anzi. Allora controlliamo un'altra volta, diversamente, come si prende, controlliamo come si prende, mi si vede lì, mi si vede lì, e mi va di muro. Però per tutto devi dire lo stipendio, se no che tu zecca altri cosi, che non metta in nuda, per tutto di 9. Tu devi dire comune di Sassari lo stipendio, per cortesia, favorisca, grazie. No, no, via. E vabbè. Cioè, ci muovi non ci muovi, va. Ma ci muovi, ma mi sono riusciti. E l'hai solo viaggiato, dico così, e pagando mi sono i pagamenti, e a me non mi è capitato così, ma pensi. Tutti gli dinari che chi ha già guadagnato mi sono riusciti in buffi e così. Ti dovevo pagare, e purtroppo. E così. Cazzo. E quindi mi sono arrivato assai. E vabbè, non ti dica. Ma sono andato in bagno, purtroppo non ce la fa mai di pagare. Sono casino. Adesso comunque mi vado, adesso mi sdraio un po' e sono crepato. La ripeto, è lui, io vi ascolto. Se ne ho voglia, già ripeto anch'io, no? Mi si cura tra la culla, un io. Sì, ma se te la giungo manco io, mi dico. Vabbè, buona... Quell'X, riprendi già. Mi ascolto, se ne avete già... Qualche mattutina l'ha fatto. Avanti, a tu riprendi tu, già che sarà dormito. Noi si sente la taglia da me lì. Gianni che tu. Ehi, ehi, ehi. Lasci in barco la gomera dove ha chi dura. Cosa? Con la gomera dove ha chi dura. E anche la moglie, no? Ehi, mia moglie, non sto scrivendo. Chissà, l'ha combinato, mi sono messo a scena. Per intanto ne combinavo. Poco fa per dire la nostra baracchina aveva premuto la portata. Era di cultura giusta. Sì, e poi ve ne ha conto quella dito. Cosa che c'è della portata? Se perché la portata disturba chi parla, e poi pensavo che sia io. Ah, beh, se vi dà un questione sì. Tu perché lui non deve toccare la parecchia? Raga, manco male che i figlioli non l'ha giocato. Ah, è giusto anche la correzione, Natalia. Infatti sì, ma non ho acqua di Rubocchi, no, quella lì dove mi non. Di Rubocchi no, ma due curatori sì. Quando ci vogliono quelli sì, io non sto dicendo di no. La correzione ci vuole, se tu non correggi una che minori, non correggi più una lavoro. È giusto che sia così, la corrente da piccolo, sennò da mano ti piglia per un culo. Da poi non vedresti più. E infatti. E tu io, mamma mia, li voglio bene i bambini, meglio che non abbia avuto mai. Perché dopo magari li avrei picchiati e me ne sarei pentito. Così succede. Però la correzione ci vuole. Penso che pure tu si fa di qualche cosa le fuori vite e verane. Ehi, la voglia, ha voglia. So che sia così. Vabbè dai, mi sta venendo il sonno, mi si stanno calando le palpebre, io mi saluto e me ne passo un QRT, anche so che c'è comunque, mi pare che l'ha già calato monte dal mondo. Vabbè dai, ci sentiamo, dai, le prossime, QRT per me. Ciao, ciao, Talibano. Ciao Gianni, ciao Antonio, e anche a quelli che ascoltano, correnti per me là, ma sento la televisione, ma poi un po' di televisione mi si ponga a cuccia. Ci sentiamo al prossimo, va.